Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, oggi puntata speciale come ci capita di realizzare spesso in concomitanza dei periodi di festa. Allora abbiamo pensato di darvi qualche indicazione di lettura se vorrete passare del tempo dedicandovi ad uscite più o meno recenti che possono tornarvi anche utile anche per la miglior gestione ed organizzazione del ménage familiare dal punto di vista economico, perché lo sapete, Salva Danaio si occupa di questo. Il primo libro che vi presentiamo oggi, anche se in realtà è stato pubblicato da qualche mese e ha avuto un successo enorme, è Donne sull'orlo della crisi economica, diventa manager di te stessa, impara a vedere rose e non resterai al verde. Una delle autrici oggi è qui con noi, la collega del Sole 24 Ore, Monica D'Ascenzo, che già scuote le mani. Non ha avuto un gran successo, invece credo proprio di sì, Monica, forse anche inaspettato per certi aspetti. Sì, diciamo inaspettato perché l'interesse delle donne per la finanza di solito e per l'economia Non è così ovvio. Mm-hmm. Quindi il fatto che comunque ci sia stato questo interesse e ci abbiano chiamato a presentarlo un po' in tutta Italia è stato una sorpresa piacevole. Tu ci stai dicendo ci hanno invitato a presentarlo in tutta Italia, perché il libro, oltre che portare la tua firma, naturalmente scritto a quattro mani, c'è la collega Giada Vercelli, che è una collega che ha un'esperienza tra l'altro giornalistica internazionale molto importante. Io ricordo Monica D'Ascenzo, lavora al Sole 24 Ore, redazione finanza, e invece Giada Vercelli è stata corrispondente per grandi network internazionali, appunto per quello che riguarda il nostro paese. Sì, è stata corrispondente, la prima corrispondente italiana da Wall Street per Bloomberg TV, adesso si è trasferita a Londra e ha presentato il libro anche a Londra, peraltro. Allora, noi siamo nel bel mezzo, Monica, di questa crisi finanziaria pesantissima, e sono state tante le pubblicazioni che l'hanno analizzata in lungo e in largo. Forse anche per questo motivo io prima dicevo un successo insperato, perché in questo momento forse la nostra attenzione è stata rivolta a tante altre cose. Quindi com'è questa crisi vista al femminile? Diciamo, la crisi è uguale per tutti, ma poi ha avuto una declinazione diversa anche di genere. Le donne hanno subito, soprattutto nella prima parte della crisi, la maggior parte dei licenziamenti, perché soprattutto in Italia rappresentano, lo ricordiamo, oltre il 60% dei lavori precari, quindi chiaramente i contratti dei precari sono stati i primi a saltare. C'è da dire che forse per una questione di predisposizione psicologica a rimboccarsi le maniche, o forse perché sono state le prime a perdere il lavoro, hanno reagito meglio, tant'è vero che gli ultimi dati della disoccupazione indicavano una disoccupazione in calo per le donne dello 0,2%. È pochissimo, però è già un dato che dà un miglioramento, ed era relativo a gennaio di quest'anno. Anche a livello di imprenditoria sta reagendo meglio l'imprenditoria femminile di quella maschile, perché la crescita nel corso del 2009 è stata del 2% contro un calo pesante invece dell'imprenditoria in generale. Ecco, magari questo è proprio un aspetto che approfondiremo nel corso del nostro approfondimento. Volevo chiederti però, allora, alla luce dei risultati, i libri lo hanno già comprato e letto in tanti, avevate pensato inizialmente, quando avete cominciato così un po' a ipotizzare come poteva essere formato, ad un obiettivo preciso da raggiungere? Qual era, come dire, lo spirito che vi ha animato all'inizio del vostro lavoro? Diciamo, al di là di dare un quadro della situazione come quello che insomma ti ho dato poco fa, era soprattutto uno spirito pratico, perché secondo noi le donne vanno alla base delle cose. Infatti ai capitoli, diciamo, più descrittivi e saggistici vengono poi uniti dei capitoli manualistici che vanno nel dettaglio. Volevamo dare degli strumenti alle donne per affrontare questa situazione di difficoltà e degli strumenti che potessero poi aiutarle a reagire concretamente nella loro vita. Infatti poi magari prenderemo magari il sommario, Monica, e analizzeremo capitolo per capitolo quali sono i temi affrontati e quali sono i suggerimenti pratici proprio formulati al termine di ogni capitolo. Tanto approfondimento dedicato proprio al mondo del lavoro. Due autrici, io lo ricordo ancora, abbiamo già detto qual è la vostra specializzazione professionale, cresciute a pane e finanza in un mondo prettamente maschile. Questo aspetto ha rafforzato la dotazione immunitaria necessaria per scrivere anche questo volume, Monica? Secondo me sì, ma anche tu sei cresciuta nello stesso mondo. Secondo me non si è consapevoli dell'ambiente in cui si vive fino a quando non ci si ferma un attimo a riflettere. Diciamo che io credo che di aver agito come te negli anni e di averlo fatto in modo inconsapevole, di essermi mossa in questo mondo con molta naturalezza. Certo, è difficile perché io per esempio ho smesso di mettere i tailleur perché quando andavo alle presentazioni degli analisti molto spesso mi chiedevano dove mettere i cappotti perché mi prendevano per un hostess. Quindi diciamo bisogna poi ambientarsi e cercare di avere quelle difese immunitarie, come dicevi tu, per andare avanti nonostante tutto. Io ho smesso di metterli invece perché entrando qua alle 7 del mattino fra un po' arriverò in pigiama direttamente, quindi l'evoluzione diciamo è stata di tipo diverso. Allora cominciamo un po' a dare qualche anticipazione a chi ancora non avesse in mano il volume, invogliamolo a prenderlo e a leggere tutte queste indicazioni pratiche. Nella prima parte si riesamina un po' che cosa è successo in questa crisi terribile della finanza e quindi siccome l'abbiamo raccontata fino alla nausea la lasciamo perdere. Seconda parte, il lavoro, donne, la carta vincente, Monica, insomma il tema del lavoro è molto importante, peraltro adesso è un momento in cui c'è un ampissimo e intenso dibattito sulle possibilità che hanno le donne di rientrare nel mondo del lavoro, non solo in questa fase di crisi, ma c'è un dibattito molto intenso sul tema della maternità, quindi rientrare al lavoro dopo la maternità. Sì, i dati diciamo sono un po' sconfortanti in Italia perché l'occupazione femminile è il 47,2% contro quasi un 60% di media europea. E in Italia ci sono stati degli studi di Banca d'Italia che hanno sottolineato come un incremento dell'1% dell'occupazione porterebbe a uno più 0,5% del PIL. Ma le donne non sono soltanto PIL, quindi prodotto interno lordo, ma sono anche BIL, e questo lo vorrei ricordare. Il BIL è il benessere interno lordo, perché le donne non producono soltanto quello che diciamo fanno sul lavoro, ma anche tutte le lavori di cura in casa, che vengono stimati intorno ai 300 miliardi di euro l'anno, che non è poco. Quindi le donne fanno bene alla società in generale. I problemi ci sono perché l'accesso all'occupazione per le donne non è semplice e servirebbero delle strutture, dei servizi a sostegno per esempio dell'infanzia o degli anziani che possano permettere alle donne di uscire di casa. C'è anche da dire che un grosso gap da colmare è il fatto che le donne perdano il lavoro nel 25% dei casi dopo la prima maternità, come dicevi tu. Esistono delle iniziative, e una è fatta dalla Regione Lombardia e da GE Group, che è Moms at Work, c'è anche il sito, per il ricollocamento delle appunto mamme all'interno del mondo del lavoro. Qualcosa quindi si sta muovendo. Quante volte le donne sono e rappresentano un limite per se stesse? Intendo, rientrare nel mondo del lavoro molto spesso è difficile perché proprio in questo frangente di crisi naturalmente le aziende ci pensano due o tre volte prima di magari impiegare una persona che ha impegni familiari molto importanti, ma quanto magari le donne a volte rinunciano per la propria famiglia a rientrare nel mondo del lavoro, magari soffocando anche un po' le proprie vocazioni, le proprie ambizioni? Ma capita spessissimo appunto perché mancano le reti e i servizi che possano sostenere anche le ambizioni femminili. Ambizione non è una parola brutta, ma è assolutamente un diritto di ogni donna. Legittimo, certo. Certo, ci si deve augurare un cambiamento culturale che però ognuna di noi secondo me può portare avanti all'interno della propria famiglia e del proprio posto di lavoro. C'è un dato che avete diffuso in questo, se si ritorna a parlare in sostanza di una legge. Dicevo prima, adesso il dibattito sul rientro delle donne nel mondo del lavoro una volta che c'è stata appunto una maternità è un dibattito molto importante in questo momento, ma leggo che ci sono delle leggi in Italia che riguardano queste agevolazioni per un rientro morbido della maternità, dalla maternità dal 1993 addirittura, una legge che per esempio prevede contributi alle imprese che a loro volta si attivino con azioni positive per la flessibilità, quindi è un dibattito che sembra nuovo ma lo è solo apparentemente. Il problema è che certe leggi poi non vengono conosciute, per esempio c'è la legge 53 dell'8 marzo 2000 che permette di ottenere per le aziende dei finanziamenti a favore della flessibilità, del telelavoro, del part time, cioè le aziende possono ricevere incentivi statali per implementare al loro interno queste forme di lavoro flessibile. Il problema è che la legge non viene conosciuta, i finanziamenti non vengono chiesti e quindi resta tutto rimane lì. Fermo. Terza parte dedicata ai consumi, quarta parte dedicata agli investimenti. Qual è il capitolo al quale sei più affezionata? Quello dove ci hai messo, come si suol dire, corpo e anima? O sono tutti un po' figli tuoi come il tuo nella vita? No, diciamo, quello che mi è costato una riflessione anche personale è soffitti di vetro e pavimenti di cartone. Cioè, fatto del fare carriera, non perché non sia importante il problema di entrare nel mondo del lavoro, ma perché molte donne, una volta che ci sono entrate, si trovano, diciamo, bloccate nella loro posizione. Allora è importante sapere come muoversi, perché purtroppo per questione di educazione molto spesso non abbiamo gli strumenti. Per esempio, faccio un esempio pratico, le donne non trattano, quindi molto spesso e non chiedono, a volte addirittura, e non chiedono, esatto, hanno degli stipendi molto più bassi dei colleghi maschi, e questo è un errore, come dicevi tu, che facciamo noi stesse, forse facendoci un autolavoro di consapevolezza dovremmo muoverci in modo diverso. Purtroppo però ci viene dall'infanzia, perché i dati dell'Istat dimostrano come le paghette dei maschi siano più alte e più regolari di quelle che ricevono le bambine, quindi i maschi vengono abituati a gestire il denaro, le bambine no. Le bambine ricevono la paghetta solo se aiutano in casa, sin da quando sono molto piccole. Forse l'hai raccontato tu questo episodio in un'altra volta, in un'altra circostanza in cui ci siamo viste. Ma neanche sempre, perché se apparecchiano è gratis, non ricevono neanche un euro. Esatto. Ah, ecco, forse era questo l'episodio, me lo ricordavo bene. No, tra l'altro noi stiamo anche descrivendo il libro come un po' una summa di leggi, abbiamo ricordato tante normative che riguardano per esempio le donne, il mondo del lavoro, ma è scritto anche in maniera, segnaliamola agli ascoltatori, leggera in certi aspetti, no? È una lettura scorrevole, so che non dovresti dirlo tu, lo dovrei dire io naturalmente, però in qualche maniera, come dire, anche l'aspetto pratico è trattato con un po' di leggerezza, perché forse ci vuole. Dovremmo prenderci anche un po' meno sul serio. Infatti, secondo me le donne hanno una capacità di autoironia che ancora non è emersa, perché anche qui nell'educazione i maschi vengono abituati a fare la battuta e a scherzare anche per conquistare noi donne. Noi dobbiamo fare un po' le serie, invece prendersi con un po' di autoironia e diciamo prendere le cose con un'altra con una rilassatezza diversa, forse ci abituerebbe anche a avere dei rapporti diversi sul lavoro. Allora, le ultime cose che dobbiamo ricordare è proprio il tema dei consigli pratici rilasciati e forniti al termine di ogni capitolo. Addirittura c'è tutto quello sulla casa che non ho segnalato, capitolo 13, ristrutturare casa per risparmiare e vivere meglio, questa è la postilla finale, ma insomma ce ne sono tante altre, no Monica? Di indicazioni concrete. Sì, perché l'altro difetto delle donne è lasciare gestire i propri investimenti e anche l'acquisto delle case molto spesso al marito e al papà. Invece se ci riappropriamo anche di questo, forse meglio. Non ho ricordato che l'editore di questo libro è Rizzoli. Ricordo, abbiamo presentato Donne sull'orlo della crisi economica di Monica D'Ascenzo, Giada Vercelli. Dopo questa fatica, perché so che ti è costato molta fatica, adesso lo state promuovendo un po' in tutta Italia, quindi accanto al lavoro e la famiglia adesso c'è anche il roadshow del vostro libro, ma io conoscendoti so che avrete sicuramente pensato anche a qualcos'altro, ad uno sviluppo ulteriore di tutto lo studio che avete fatto. Intanto sta continuando la raccolta di materiale, stiamo continuando a seguire queste tematiche, io in particolar modo sulle pagine del Sole 24 Ore, con aggiornamenti continui sugli studi e le ricerche che escono. Poi vediamo, perché già c'è stata qualche proposta, vedremo di fare un seguito. In bocca al lupo allora Monica, buon lavoro, a presto, ciao, grazie. Adesso ci fermiamo un attimo, c'è un po' di pubblicità, il meteo, e ritorniamo subito dopo. Salva Danaio. Eccoci di nuovo qua, il secondo libro che vi presentiamo oggi come personalissima guida alla lettura di Salva Danaio è stato scritto da un consulente finanziario che nel tempo libero fa anche il giornalista e l'autore di testi dedicati all'educazione finanziaria. Il libro si intitola La pianificazione patrimoniale della famiglia, percorso di educazione finanziaria, previdenziale, assicurativa, immobiliare, fiscale e successoria. Andrea Milesio, buongiorno, praticamente ha scritto tutto lei. Buongiorno e un benvenuto ai vostri lettori, ai vostri ascoltatori. Non ho scritto tutto io, vuole semplicemente essere un piccolo manuale che aiuta ognuno di noi a capire meglio di come funziona una corretta pianificazione del proprio piccolo, grande, medio patrimonio. Esatto, quindi tutto ciò che attiene alla pianificazione finanziaria della famiglia, si va dal mondo del risparmio, al mondo dei consumi, al mondo immobiliare, poi adesso esploreremo anche, io prenderò l'indice Milesio ed esplorerò insieme a lei per i nostri ascoltatori tutto il libro. Ricordo che è edito da Buffetti, peraltro si tratta di una seconda edizione se non sbaglio. Sì, è la seconda edizione, la prima è stata fatta nel 2007, è andata molto bene e poi mi sembrava giusto andare ad inserire tutta una parte nuova in funzione di quello che è accaduto nel 2008 e metà del 2009, dove le famiglie italiane si sono trovate a affrontare tutta una molteplicità di problematiche che fino allora non avevano avevano mai avuto a che fare. Quindi la famiglia, parliamo del capofamiglia, famiglia SPA, quindi un buon imprenditore è il capofamiglia. Ecco, siamo partiti da questa logica. Benissimo, adesso vedremo anche come avete proseguito. Peraltro, per chi si chiedesse che titolo ha Andrea Milesio a parlare di questi argomenti, io ricordo che Andrea Milesio lavora in una grande società di gestione del risparmio indipendente, si occupa di clientela istituzionale. Oggi però gli mettiamo le vesti di professore di educazione finanziaria e di insegnante di pianificazione finanziaria familiare. Proprio a proposito di questo, Milesio, qual è l'obiettivo del libro? Nel senso, il tema dell'educazione finanziaria oggi è sulla bocca di tutti, perché molti sostengono che in Italia non sia assolutamente sufficiente, però basta entrare in una libreria e troviamo volumi di ogni tipo su questo argomento. Basta collegarsi con i siti delle associazioni dei consumatori, ma anche con i siti delle banche, delle istituzioni finanziarie, e l'ABC dei prodotti di risparmio, di investimento, lo possiamo trovare davvero in molti luoghi dell'informazione. Perché allora l'educazione finanziaria si dice non sia mai sufficiente? Ma probabilmente perché dal mio punto di vista il linguaggio che è stato fino ad oggi utilizzato è stato un linguaggio più per addetti ai lavori che per persone che si avvicinavano per la prima volta ad affrontare piccole e grandi problematiche riferite al proprio patrimonio. Di conseguenza, avendo nel tempo avuto molti contatti con risparmiatori, con investitori, con consulenti di banche, ho potuto capire nel mio piccolo forse quello che veramente il cliente, il risparmiatore desiderava, quindi concetti molto semplici, spiegati in maniera altrettanto semplice e soprattutto anche l'aver trovato per la spiegazione alcuni piccoli siti internet dove il lettore avrà la possibilità di crearsi delle piccole simulazioni e trovare magari delle risposte immediate a quello che cerca. Quindi lei ritiene che il problema in qualche modo sia quello del linguaggio? Non pensa che ci sia anche una sorta di pregiudizio nei confronti dell'economia di base? Le faccio un esempio. Io quando dico che faccio questo lavoro, che mi occupo in una grande radio di economia domestica, quasi comunque di pianificazione familiare, esattamente come lei ha fatto in questo libro, e molti mi guardano con una faccia allucinata e mi rispondono: ma come fai, non ti annoi? Io di economia non ci capisco niente. Si fa a volte un errore, se così si può definire, molto banale. Si ritiene che l'economia sia quanto di più distante dalla nostra vita e si pensa che, per esempio, come giornalisti economici parliamo dalla mattina alla sera di Adam Smith, Keynes e quindi dei grandi cultori di queste teorie, e invece l'economia è la vita di tutti i giorni. Come giustifica questa resistenza generale ad occuparsi direttamente di economia, anche della famiglia, quando invece lo si fa sempre? Come dire, inconsapevolmente, che secondo lei, insomma, che cosa si può fare? Che ragionamento si può fare su questo? Ma il ragionamento è presto fatto. Io ritengo che negli ultimi due anni, a partire dal 2008, il mondo è cambiato e probabilmente molti piccoli investitori, risparmiatori hanno capito che era il caso di iniziare a fidarsi del proprio fiuto oltre che del collega consulente o operatore bancario, quindi capire un attimino di più quello che il mercato, quello che il mondo in quel momento offriva e quello che stava succedendo. Di conseguenza ritengo che sia molto molto semplice portare un esempio che mia nonna faceva sempre, che era quello che mio nonno appunto era un lavoratore dipendente, portava allora 650 lire. Quindi al mese lei aveva una serie, mi ricordo ancora, di buste, di scatole, dove destinava una parte di questo importo per la spesa, per l'acquisto dei vestiti. Quindi ragionava un po' con una piccola diversificazione. E la cosa che mi ha incuriosito era anche quando io ho scritto il primo libro, quindi la prima parte di questo libro, è stata quella anche di parlare con alcune signore, alcune che erano quindi sposate con degli operai, in questo caso proprio della Fiat, 1100 euro al mese netti appunto di stipendio. Io volevo capire come questa casalinga, come questa signora amministrava in maniera corretta, arrivando anche a risparmiare 70-80 euro al mese, quindi non facendo mancare niente alla propria famiglia. E quindi devo dire che questa cosa mi ha lasciato veramente perplesso, ma positivamente anche perplesso, dove anche queste persone che, con cui ho parlato, avevano una licenza elementare media, eppure erano, devo dire, tutti gli effetti dei buoni economisti, e riuscivano quindi a mandare avanti la cosiddetta baracca famiglia. Quindi ritengo che oggi il risparmiatore, oggi chi si è iniziato a occupare veramente dei propri risparmi, nell'ultimo anno ha fatto un esercizio proprio di apprendimento veloce, e oggi l'educazione finanziaria, forse aiutata anche dalle varie associazioni, come correttamente diceva lei, sta prendendo piede. La riprova è l'ANAS, la riprova Patti Chiari, quindi tutte le varie organizzazioni legate al mondo anche dei consumatori stanno cavalcando questo tema. La riprova è stata anche il primo libro, cioè uscito, edito dal Corriere della Sera di 2 anni fa, e Non ci casco più, dove si è avuto anche da parte dei lettori un plauso proprio per il linguaggio, e soprattutto per capire quei concetti che fino allora erano un po' indigesti, ecco. Però tanta semplicità alla fine paga sempre, anche esempi molto banali. Infatti, allora, lei è partito nell'ultima risposta che ci ha dato dalla storia di sua nonna. Arriviamo al giorno d'oggi. Io leggo una parte della introduzione al suo libro. Attraverso la lettura di questo manuale, mi auguro, lei dice, che i lettori possano ricavare delle soluzioni pratiche e razionali al fine di gestire al meglio il proprio patrimonio familiare. Quali sono gli errori più comuni che si fanno nell'ambito del ménage familiare, ancora Milesio? Ma probabilmente fare il passo più lungo della gamba, quindi non riuscire a contabilizzare bene quello che è il classico conto economico, quindi la differenza di un budget familiare, quindi fra entrate e uscite, fra costi e ricavi, e quindi non si ha ancora una percezione di quanto mediamente la mia famiglia spende, quindi i componenti spendono durante il mese. Ergo, se noi riusciamo in modo estremamente semplice, banale, a razionalizzare questo concetto e capire quanto io riesco mensilmente quindi a risparmiare, posso iniziare a pensare poi di investire. La riprova è che molte volte, lanciato da una grande pubblicità, soprattutto negli ultimi anni, il mondo dei telefonini, degli elettrodomestici, che ha portato quindi le famiglie a indebitarsi con rate anche abbastanza pesanti, perché non dimentichiamoci che l'Italia a livello europeo è fra le prime 3 nazioni dove la cosiddetta rata ha avuto un'impennata crescente appunto negli ultimi anni. Quindi io dico sempre, in modo molto razionale capiamo quanto mediamente al mese ci serve appunto per svolgere la nostra attività di capofamiglia, quanto noi riusciamo a risparmiare, e una volta possiamo decidere dove e come investire. Certo, non con un reddito quindi che mi porta ad avere 1000 euro al mese e una casa di proprietà, una moglie fra virgolette a carico, ritorno a dire, non si possono fare tante cose. Probabilmente il plasma da 42 pollici o la macchina di cilindrata più grande difficilmente si potrà comprare, però io dico sempre, andate a vedere anche nel libro, se io ho 1 euro, in quanto tempo riesco a raddoppiare questo euro a un tasso di interesse del 2%? Ci vogliono 36 anni. Di conseguenza io dico, ma ci vuole così tanto tempo, allora probabilmente mi tengo la mia macchinetta, perché vedo che questa cosa è impossibile che si realizzi nel breve periodo. Però che volevo dire che nella, come dire, società del consumismo sfrenato, che la nostra può sembrare un discorso come al solito sempre molto retorico, però si fa molta fatica a fare delle rinunce, soprattutto quando le si devono far fare anche ai propri figli, che sono abituati invece a dei confronti magari con i compagni del tutto sbilanciati. Detto questo, Milesio, non rimane poco più di un minuto di tempo, rapidamente, cosa dice tutto il resto del libro, perché larga parte del suo testo è dedicato proprio all'educazione, alla pianificazione finanziaria da parte della famiglia, ma poi ci sono anche tutte le regole, per esempio della previdenza, del settore immobiliare, del fisco, tutto ciò che comunque attiene alla famiglia. Certo, è importante, io dico sempre, trovare una giusta pianificazione previdenziale all'interno del proprio nucleo domestico, specialmente una pillola di saggezza. Se io sono l'unico portatore di reddito, la prima cosa che dovrei fare con il concetto del welfare di famiglia è sottoscrivere una polizza temporanea a caso morte, per fare un esempio, in modo che in caso di decesso il mio nucleo familiare può vivere in modo più degno, più tranquillo. Un'altra domanda che molti fanno è: ma conviene mantenere del denaro sul conto corrente per aspettare che il mercato immobiliare scenda ancora un po' e comprare immobili e metterli a reddito? Ma è veramente così conveniente avere 3-4 immobili e metterli a reddito anziché investire in un'attività finanziaria come un BTP o piuttosto di un fondo obbligazionario paga in 5-10 anni? Quindi in sostanza si fanno dei confronti che forse sono le cose proprio che più mancano, esatto, a chi deve approcciarsi alla pianificazione patrimoniale e finanziaria della propria famiglia. Milesi, io la ringrazio per essere stato con noi, la richiameremo senz'altro per approfondire ancora meglio i concetti che esprime nel suo libro. Buon lavoro intanto. Grazie a lei e un saluto ai suoi ascoltatori. Ricordo ancora il titolo del libro, La pianificazione patrimoniale della famiglia, editore Buffetti, l'autore Andrea Enrico Milesio. Adesso i suggerimenti per chi è in viaggio, a tra poco. Salva Danaio. Ultimo libro che vi suggeriamo di leggere in questa personale guida di Salva Danaio alla lettura è in realtà un corposo rapporto del quale la redazione di Radio 24 ha già avuto modo di parlare negli ultimi giorni. Il rapporto famiglia del CISF, il Centro Internazionale Studi Famiglia, il titolo del rapporto è Il costo dei figli, quale welfare per le famiglie, ed è un lavoro che illustra i risultati di un'indagine condotta ed elaborata sulla base di 4.000 interviste su un campione rappresentativo di famiglie italiane. Oggi con noi il curatore dei rapporti, il professor Pierpaolo Donati, ordinario di Sociologia della Famiglia all'Università di Bologna. Professor Donati, buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, si tratta di un lavoro biennale, se non abbiamo capito male, con il quale si vuole mettere in luce che cosa, professore? Qual è l'obiettivo di questo lavoro che è piuttosto anche imponente, perché abbiamo già ricordato 4.000 interviste su questo campione di famiglie italiane? Che domande sono poste loro e appunto qual è l'obiettivo di questo rapporto? Sì. L'obiettivo è stato quello di capire perché in Italia nascono pochi bambini. Le donne italiane in media hanno 1,3 figli nel corso della loro vita, mentre per esempio le immigrate hanno 2,2 figli, immigrate in Italia, e in generale diciamo l'Italia è un po' nel fondo dell'imbuto del mondo, nel senso che ha il minor numero dei figli fra tutti i paesi praticamente del mondo. E quindi è un tema di grande attualità, perché uno si chiede come mai così pochi figli, è dovuto al costo dei figli. In realtà il rapporto dà una risposta abbastanza interessante, cioè che i soldi contano certamente, perché i figli incidono tra il 34 e il 40% del budget familiare mensile, però non sono la vera causa di fondo, se no non si spiegherebbe perché le immigrate, che magari hanno problemi di lavoro, di casa e in generale di povertà, abbiano molti più figli delle italiane. E quindi la spiegazione finale di questa indagine, come ha detto lei, molto corposa, che ci ha impegnato per 2 anni, è che i fattori psicologici e culturali sono ancora più importanti del costo finanziario, nel senso che i bambini sono così pochi perché c'è una grande paura del futuro, il senso dell'incertezza, il disorientamento, il rischio di avere figli, il fatto di sentirsi inadeguati come genitori a educare i figli. E quindi abbiamo indagato diciamo un po' tutti i fattori, ovviamente anche quelli materiali, la carenza della casa, il lavoro, i problemi dei servizi. Magari anche il senso della rinuncia fra le giovani coppie, chiaramente avendo un figlio magari si deve rinunciare ad un aspetto di relazione che per qualcuno è considerato molto importante, c'è anche questo? Ah, non c'è dubbio, anche il tempo noi l'abbiamo calcolato, che rientra in quelli che noi chiamiamo i costi di accrescimento, perché nei costi dei figli bisogna distinguere fra i costi di allevamento, che sono i bisogni di base, quindi gli alimenti, il vestiario, la scuola, l'istruzione, la sanità e così via, da quelli che sono invece i costi in termini di tempo dei genitori, i costi per gli hobby, per il tempo libero e così via. E indubbiamente questo secondo fattore, diciamo, dei costi di accrescimento, il tempo, i servizi supplementari, eccetera, eccetera, ha una incidenza forte soprattutto nelle classi medio-alte che se li potrebbero consentire dal punto di vista finanziario, ma che diventano molto costose in termini appunto di sacrifici delle persone, per cui il genitore medio italiano fa un calcolo, per così dire, che non tiene conto solo del costo materiale, ma soprattutto dei sacrifici, e siccome i bambini sono diventati più un bene di consumo che di investimento, vengono paragonati a altri beni, per cui vengono ad esempio messi dopo la macchina nuova, la vacanza all'estero, magari il piccolo appartamento e così via. E tutto questo spiega perché ci sono così pochi bambini. Mm-hmm. Nel vostro libro, professore, chiaramente noi passiamo dall'introduzione già immediatamente alle conclusioni, fornite anche delle indicazioni di policy da formulare naturalmente a chi dovrebbe amministrare, chi dovrebbe sostenere dal punto di vista amministrativo, politico, le famiglie. C'è l'aspetto importante del dato sulla spesa sociale a favore della famiglia in Italia, l'1,1% del PIL, questo è un dato che si riferisce a qualche anno fa, credo che sia variato poco negli anni, contro un 2,5% della Francia e il 3,2% della Germania. Cosa si intende, professore, per spesa sociale per la famiglia? Tutto ciò che attiene ai servizi come asili, situazioni di lunga degenza, per esempio, per i genitori? Che cosa c'è dentro questa voce? Beh, ci sono soprattutto, la prima voce sono i trasferimenti monetari alle famiglie, quindi l'assegno al nucleo familiare e il costo che hanno le detrazioni, le deduzioni fiscali per i carichi familiari, e tutti quelli provvedimenti finanziari, bonus famiglia e mutui agevolati e così via. Poi naturalmente vengono anche i programmi speciali come quelli degli asili nido, voi quelli statali o comunali, voi quelli aziendali, e complessivamente prendono questo 1, qualcosa del PIL italiano, prende appunto però le materie specifiche della famiglia, non riguarda ad esempio i costi della sanità che vanno sul budget della sanità e così via, riguarda essenzialmente quello che viene destinato alle famiglie in termini soprattutto di trasferimenti monetari, e bisogna notare questo divario con gli altri paesi, soprattutto la Francia e la Germania. Se lei tiene conto ad esempio che gli assegni familiari in Italia sono in rapporto a quelli tedeschi di 1 a 9, la Germania dà 9 volte tanto in termini di aiuto finanziario mensile alla famiglia. Ecco, questa è la spesa sociale per le famiglie. Noi, secondo lei, abbiamo le condizioni affinché in Italia si possa tendere verso i modelli europei più virtuosi? Che caratteristiche in Italia potrebbe, non dovrebbe, ma potrebbe avere un welfare amico della famiglia e dei figli, professor Donati? Ma un welfare amico della famiglia dovrebbe appunto diventare soprattutto amico dei bambini, cioè a dire fare un sistema fiscale che aiuti molto di più le famiglie ad avere figli a livelli. Questo riguarda il sistema fiscale, quindi bisogna aumentare molto le deduzioni, le detrazioni fiscali che ancora sono veramente scarse, gli assegni familiari, e in prospettiva introdurre il quoziente familiare. L'idea del quoziente familiare è che viene tassato il reddito familiare non come adesso su quanto i genitori guadagnano, ma viene tassato quel reddito diviso il numero dei membri della famiglia, quindi quanti più figli si hanno, tanto minore è il reddito che viene tassato e quindi minore le tasse che spende la famiglia. Questo sarebbe veramente, diciamo, la misura che servirebbe per rendere più equa la distribuzione delle risorse verso le famiglie. Mm-hmm. Diciamo che il costo non è un costo attivo dello Stato, sarebbero solamente alcune minori entrate che però potrebbero essere equilibrate dal fatto che il quoziente familiare dovrebbe rappresentare una redistribuzione orizzontale fra le famiglie, quindi non dovrebbe essere un costo in più per lo Stato, ma dovrebbe essere un modo di trasferire risorse dalle famiglie che non hanno figli o hanno meno figli alle famiglie che hanno più figli, e quindi sarebbe una misura non troppo costosa, ma soprattutto di giustizia verso le famiglie che hanno più figli. Professor Donati, io la ringrazio per essere stato con noi in questa puntata di Salvadanaio dedicata ad indicazione alla lettura, e magari forse in questo caso un libro non destinato fondamentalmente alla famiglia, che ovviamente potranno leggere e trovare spunti interessanti, magari qualche motivo anche di incoraggiamento ad ampliare la famiglia, ma soprattutto rivolto, credo, a classe politica, giusto? Sì, agli amministratori in generale, certo. Dai comuni alle regioni. Regioni e allo Stato. Sì. Grazie, grazie molte, le auguro buon lavoro, a presto. Auguri, buona Pasqua. Buona Pasqua anche a lei, a presto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Anche oggi vi ricordo, come ultima informazione di servizio, che il 21, il 22 e il 23 aprile a Milano si svolgerà il Salone della Gestione del Risparmio, un evento italiano interamente dedicato al settore del risparmio gestito. Radio 24 sta proseguendo il suo percorso per spiegarvi quali sono le parole del risparmio gestito. Ve le stiamo proponendo da qualche giorno e andranno in onda fino all'inizio del Salone del Risparmio. La parola di oggi è classificazione. Radio 24 e Assogestioni vi presentano le parole del risparmio. Assogestioni ha classificato i fondi comuni di investimento a partire dalla loro nascita in base al peso delle attività finanziarie prevalenti nel loro portafoglio, dunque in base alla loro composizione. La classificazione prevede attualmente 5 macrocategorie: azionari, bilanciati, obbligazionari, liquidità, flessibili. Ma per arrivare a questa suddivisione ci sono voluti interventi e modifiche nel corso degli anni, dettati dall'evolversi dello scenario finanziario di riferimento. La prima suddivisione risale al 1984 e si riferiva dunque a un mercato piuttosto limitato. Ecco perché venne modificata in seguito alla liberalizzazione del mercato dei capitali in Europa e alla conseguente caduta dei limiti all'investimento sui mercati esteri, fattori che portarono alla nascita dei primi fondi orientati all'investimento sui mercati internazionali. La classificazione fu ulteriormente aggiornata nel maggio del 1995, distinguendo i fondi in relazione alla maggiore specializzazione degli investimenti verso specifiche aree geografiche e valutarie. L'avvio dell'Unione Monetaria nel gennaio 1999 determinò l'eliminazione delle categorie che avevano come riferimento le valute nazionali dell'Unione Europea. Contestualmente fu innalzato al 70% il limite minimo di investimento in titoli azionari dei fondi azionari e furono introdotti i fondi di liquidità area euro e flessibili. L'elevato interesse verso i settori della New Economy portò infine all'introduzione, nell'aprile 2000, della nuova sottocategoria Nuove Tecnologie e Telecomunicazioni, mentre dall'ottobre dello stesso anno i fondi bilanciati furono suddivisi in bilanciati azionari, bilanciati, azioni in portafoglio comprese tra il 30 e il 70%, e bilanciati obbligazionari, azioni in portafoglio comprese tra il 10 e il 50%. Salone del Risparmio a Milano dal 21 aprile. Iscriviti gratis a salonedelrisparmio.it. Vi ha presentato le parole del risparmio. È tutto, Salvadanaio dedicato ai consigli e alla lettura termina qui. Da Deborah Rosciani grazie, grazie a Gaia Romani ed Alessandro Longoni per la collaborazione in redazione, Filippo Aureggi in assistenza tecnica. Noi ritorniamo nei prossimi giorni. Buona Pasqua a tutti.